Abbiamo scelto lo strumento del focus group, quindi è un'intervista qualitativa con un gruppo che va da 8 a massimo 12 persone, della durata di un'ora e mezza. In realtà segnaliamo che sono stati argomenti talmente importanti e di necessità per le donne che sono durati tutti almeno 2 ore. Abbiamo intervistato un campione di 40 donne nelle 4 città. Ovviamente non è un campione rappresentativo dal punto di vista quantitativo, ma è stato proprio scelto qualitativo per andare a scavare dietro i dati statistici che cosa, quali fossero i pareri, i punti di vista, in maniera proprio empatica e fisica data dal confronto. Ecco, quali sono le problematiche che le donne di queste 4 città hanno evidenziato di più? Ci sono dei fili conduttori, sicuramente uno è legato al tema degli asili nido, quindi che ha dietro di sé la macro questione della cosiddetta conciliazione fra lavoro e vita personale, che ovviamente tiene anche il tema del tempo libero, che non c'è quindi assolutamente, perché poi si deve sempre, no, conciliare, e si parla sempre di vita e famiglia, ma c'è tutto un mondo dietro che attiene alla propria vita personale, ai propri interessi, che è molto difficile da poter alimentare quando è tutto focoscitato da necessità di mantenere un lavoro e anche di seguire la famiglia. Quindi gli asili nido, che è stato assolutamente addirittura intergenerazionale come tema, quindi non sono solo le madri che hanno adesso figli, ma sono anche le nonne che quindi devono sostenere le figlie con i nipoti, che sono affaticate proprio da questo carico che poi dalle figlie passa anche quando sono vicine, perché poi ci sono anche molte persone in città come ad esempio Bologna dove i nuclei familiari non hanno i propri genitori qui, perché sono persone che si sono spostate da altri territori. L'ambiente è un'altra tematica fondamentale, quindi favorire politiche concrete di cambiamento per cambiare le abitudini e invertire un po' il trend che ci sta portando a un cambiamento ambientale molto problematico e anche pericoloso rispetto alla società in cui viviamo. I giovani, politiche per i giovani, in particolare per inserimento nel mercato del lavoro, e rispetto alle condizioni contrattuali che poi i giovani e le giovani trovano nel mercato del lavoro, che se non sono di un certo tipo, che possono dare una stabilità e concretezza, si riagganciano anche a un tema molto sentito che è quello della casa, dove è molto difficile trovare case in affitto rispetto alle garanzie che vengono richieste, che se ci sono contratti precari ovviamente non permettono poi di poter trovare una casa in affitto. E poi c'è anche tutto il tema dei costi degli affitti. E un altro tema fondamentale è stato quello proprio della favorire un cambiamento culturale rispetto alle discriminazioni e anche in particolare rispetto alla violenza maschile sulle donne. Un'altra cosa che emerge è che i candidati e le candidate sono poco conosciuti. Sì, assolutamente, questo è stato uno dei dati che ci ha colpito di più in assoluto da questi focus group, cioè la mancanza di conoscenza dei candidati. In particolare parliamo dei candidati alla presidenza, quindi Stefano Bonaccini e Lucia Borgonzoni. Quindi emerge una gran parte delle donne che hanno partecipato ai focus group non conoscevano i due candidati, i loro programmi, e quindi hanno fatto pure fatica ad esprimere dei pareri, dei giudizi un po' su di loro, perché c'era una scarsa conoscenza anche delle proposte, delle loro figure. Quindi questo ci ha interrogato molto rispetto al grado di conoscenza che si ha sul governo regionale in generale, quindi l'impatto anche delle politiche regionali sulle città e la vita che viviamo quotidianamente. Quali sono le proposte invece che motiverebbero queste persone ad andare al voto? E sono appunto collegate ai 4 fili conduttori che nominavamo prima sulle tematiche principali, quindi proprio rispetto al tema, diciamo, dell'ambiente, quindi politiche concrete in questo senso, innovazione sociale e in particolare per quanto riguarda proprio il tema del conciliare vita e la vita personale, la famiglia e il lavoro, quindi fare delle proposte innovative e coraggiose su questo punto di vista, e proprio trovare delle soluzioni concrete per i giovani rispetto all'inserimento lavorativo, perché al momento questo è un tema che ancora non vede degli esiti concreti, ci sono delle forti difficoltà, quindi su questo intervenire il prima possibile e promuovere delle politiche culturali di educazione, in particolare poi già a partire dalle scuole dei vari ordini e grado, che permettano di combattere le discriminazioni che ci sono su vari fronti, genere, la provenienza, religione, qualsiasi tipo, e in particolare rispetto al tema della violenza maschile sulle donne. La sensazione che avete avuto però è che, a differenza del turno precedente, l'affluenza al voto sarà maggiore, almeno per quanto riguarda le donne. Sì, dalle donne che abbiamo intervistato emerge una assoluta volontà e desiderio di andare a votare e urgenza, e questo è già un dato che è importante, che emerge, quindi la volontà di andare a votare. Magari non tutte hanno ancora deciso la coalizione, quindi c'era una componente indecisa ancora, però c'era una fortissima volontà di andare a votare e anche di essere proattive perché persone che conoscono vadano a farlo, quindi grande coinvolgimento, quindi speriamo che appunto tante persone vadano appunto a votare, che è importante.